tre mesi che ti avevo qua, il ritornello non chiudeva mai. Era un po' come possederti solo a metà. E mentre il vento spolverava via le prime foglie gialle come se fossero note un po' scollate, un pentagramma abbandonato su una sedia in un bar. Ti provocavo fischiettandoti, mi addormentavo immaginandoti, accarezzata da parole che ti vestivano come una venere di poesia. Tre mesi di corte sfrenate.